Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Van Loon, programma a cura del caso S. Hendrik Willem Van Loon è stato un noto storico e divulgatore olandese. Le ragazze e i ragazzi del caso S invece sono un gruppo di studenti di Bologna che ha dato vita ad un progetto di comunicazione storica. Ogni due settimane saranno loro a parlarci proprio di storia, sottoponendoci spunti di riflessione ed approfondimenti di vario genere, anche legati ad argomenti di attualità. In questa puntata si parlerà del movimento ecologista italiano. Buon ascolto! Tutte e tutti da Elena e Debs. Negli ultimi tempi la questione ambientale è stata completamente assorbita dai mass media. Ogni giorno, attraverso giornali, televisione e internet, ci viene raccontato degli ultimi disastri ambientali e ce ne sono profetizzati di nuovi. L'immagine di un pianeta Terra costantemente minacciato da cupidigia e negligenze umane è talmente assodata da lasciarci ormai indifferenti. Da parte loro, le nuove strategie di marketing, il greenwashing, hanno fatto del rispetto per l'ambiente uno specchio per le allodole, al fine di vendere i prodotti a prezzi maggiorati, facendo leva sul sentimento solidale del cittadino medio. Ma chi davvero lotta e si interroga su queste problematiche? Quando è nato e come è cambiato il cosiddetto movimento ecologista, eterogeneo quanto le questioni che solleva? Fin dall'antichità, donne e uomini hanno instaurato differenti rapporti con la natura, riservandole un determinato posto all'interno di una precisa costruzione culturale. Tuttavia, per assistere alle prime campagne in difesa dell'ambiente bisogna aspettare tempi molto più recenti. In Italia è solo nel primo dopoguerra che si costituiscono le prime associazioni per difendere la natura. Il dopoguerra è stato periodo di boom economico, durante il quale la volontà di riprendersi dalle distruzioni provocate dal conflitto mondiale ha alimentato una cementificazione indiscriminata. Il pericolo che opere antiche e oasi naturali fossero distrutte per far spazio a autostrade e a nuovi stabilimenti industriali ha portato alla nascita di associazioni tuttora esistenti, tra cui Italia Nostra e WWF. Queste associazioni, impegnate nella salvaguardia dei centri storici e nella costituzione di aree naturali protette, erano formate da un ridotto numero di persone che si distinguevano per alta estrazione culturale ed economica. Minoritari tra la popolazione, coinvolta dall'enfasi delle ricostruzioni, questi primi ambientalisti riuscivano ad essere efficaci rispetto ai loro scopi attraverso pressioni lobbistiche. Difendevano un ambiente inteso come opera d'arte, da mettere sotto una vetrina e conservare. Per questo motivo, questo primo ambientalismo è detto conservazionista. Gli anni 70 rappresentano un importante momento di svolta. In questo decennio la lotta ambientale, arricchita dall'eredità del movimento studentesco e operaio del 68, viene declinata secondo paradigmi nuovi. A partire da una riflessione sulla salute delle operaie e degli operai, sulle condizioni lavorative, si originano nuove rivendicazioni. Tutela dell'acqua e campagne di sensibilizzazione contro l'inquinamento atmosferico ne sono esempi magistrali. L'elemento di novità è riassunto dalle parole che un noto giornalista ed ecologista italiano, Dario Paccino, scrive in quegli anni ad incipiti di un saggio intitolato L'imbroglio ecologico. Questo libro è dedicato a coloro che per guadagnarsi il pane devono vivere in un habitat che nessun ecologo accetterebbe per gli orsi del Parco Nazionale d'Abruzzo. Paccino si riferisce agli operai e così scrivendo afferma l'importanza di declinare l'allora tradizionale lotta ambientale in senso antropico e sociale. Questi sono anche gli anni della mobilitazione antinucleare. Quelle battaglie, condotte alla vittoria attraverso il referendum dell'87, si erano originate dalla decisione dello Stato italiano di attuare una riconversione energetica in favore dell'energia dell'atomo. Contro il nucleare si levarono diverse voci, il Partito Radicale, gruppi della sinistra extraparlamentare, associazioni conservazioniste e soprattutto neocostituiti comitati cittadini. Gli anni 80 infine sono quelli in cui la lotta per l'ambiente ottiene una veste istituzionale. Dal 1985 il Partito dei Verdi partecipa alla competizione elettorale nazionale e nel 1986 viene creato un apposito Ministero dell'Ambiente. Inoltre è nei primi anni 80 che nasce Lega Ambiente, sorta da una parte della rivista mensile Nuova Ecologia. L'associazione si colloca in maniera trasversale rispetto all'eclettico panorama ecologista, sostenendo ora campagne più proprie di un ambientalismo conservazionista, ora più in sintonia con l'ecologia di sinistra sviluppatasi in seguito al 68. La lotta ambientale ad oggi, vasta e complessa per tutte le tematiche, le persone e i gruppi che coinvolge, va al di là delle rassicuranti etichette verdi di alcuni prodotti da supermercato. La lotta no TAV, sotto gli occhi di chiunque, ha preso forme gigantesche, resistendo a ogni attacco mediatico e repressivo, coinvolgendo persone diversissime. Una lotta che va avanti da anni, che è nata appunto per difendere una valle, è diventata un'esperienza collettiva di critica e condivisione. Riferendoci alle cronache più attuali, non possiamo non accennare al caso Eternit, conclusosi qualche giorno fa con la prima condanna dei vertici aziendali per disastro ambientale aggravato. Sono migliaia i morti in provincia di Alessandria per esposizione all'amianto. Notave e Eternit sono solo due esempi fra i tantissimi in cui profitto, ambiente e salute si intrecciano e ci fanno intuire che quando si parla di ecologia si sollevano questioni complesse e diversificate. Lasciandovi con queste riflessioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.casos.org e alla prossima puntata!